ci prendiamo invece un piccolo spazio per un po' in ritardo per fare invece parlare per presentare un testo dal titolo Sul fronte del sisma, un'inchiesta militante, Derive e Prodi Edizioni, col gruppo di ricerca Emilia di Treviri, di cui abbiamo qui una fulgida esponente, la rappresentante. Allora, ci racconterai un po' innanzitutto chi è, cioè che cos'è questo gruppo di ricerca, quando è nato, come gruppo di ricerca, in quale contesto e perché? Il gruppo di ricerca Emilia di Treviri è un gruppo di ricerca indipendente, innanzitutto, che si è formato a fianco delle brigate di solidarietà attiva subito dopo il terremoto del centro Italia, quindi subito dopo le prime scosse che hanno interessato tutto il centro Italia, quindi un cratere piuttosto vasto, costituito di 4 regioni. A fianco delle BSA appunto si è costituito questo gruppo vario in seguito a una call pubblica alla quale hanno risposto in moltissimi, tra ricercatori, professionisti, docenti, e quindi si è iniziato a lavorare su come è stata gestita tutta la fase emergenziale, su quelle che poi sono state le problematiche correlate all'inizio di una ricostruzione che tuttora però non è stata ancora avviata, perché quello che volevamo capire era sostanzialmente come la popolazione locale stava reagendo a varie dinamiche territoriali, e per cui insomma ci è sembrato opportuno sviluppare una serie di materiali dai fini divulgativi e soprattutto dall'alto contenuto scientifico. Quindi ecco, in sostanza Emilia di Treviri è nato in questo modo. Infatti mi viene spontaneo da chiederti perché è stato scelto il nome Emilia di Treviri. Allora, Emilia di Treviri prende il nome da Sant'Emidio d'Ascoli, che è il patrono dell'Ascolano, della città d'Ascoli, comunque santo protettore dei terremotati, però gli abbiamo dato il nome Emilia di Treviri, quindi riferendoci alla città tedesca, perché è la città che gli ha dato i natali, ma è appunto la città di Karl Marx, quindi un tributo a lui. Ok, quindi appunto, come dice anche il titolo, un'inchiesta militante. Sì, un'inchiesta militante. E quindi militante in che senso? Nel senso che è nata a fianco della popolazione, è nata con la popolazione, proprio perché uno dei metodi che noi abbiamo utilizzato per portare avanti la nostra ricerca è stata sostanzialmente l'inchiesta. Quindi siamo stati per molto tempo sul cratere, continuiamo ancora ad operare al suo interno, a diffondere ormai il materiale prodotto, e quindi tramite interviste, insomma tramite il dialogo, gli incontri con la popolazione locale, abbiamo cercato insomma di ricostruire un po' lo stato di fatto. Quindi queste ricerche si legano poi appunto nel colloquio con le persone, proprio con le brigate di solidarietà, sì, attiva, un legame profondo, no? Perché dicevi che la call è partita quindi proprio dalle brigate, sì, stesse. Le stesse brigate ci hanno aiutato a supportare questa call, e ora ci stanno aiutando a supportare tra l'altro la pubblicazione, la diffusione del libro che poi abbiamo prodotto in seguito alla ricerca, quindi sì, è molto vicina all'operato delle BSA sul territorio, tanto che molti del gruppo di ricerca sono stati o sono briganti. Certo, bello, briganti. Briganti. Fantastico. Senti, quindi avete scritto un libro, avrete trovato alcune piccole conclusioni o comunque a cosa ha portato questa ricerca? questa allora, prima parte forse di ricerca. Sì, perché in realtà il libro che abbiamo prodotto e che tra l'altro è in fase di pubblicazione è la sintesi di quelle che sono state le nostre analisi, quindi è un libro conoscitivo e, okay. Che ci ha consentito di sviluppare svariate tematiche che tra l'altro poi ci hanno anche permesso di dividerci dal punto di vista pratico e prettamente operativo in vari gruppi, quindi gruppo di lavoro che si occupava della governance, quindi della macchina, della catena di controllo e di comando alla base di questo sistema dell'emergenza, di protezione civile ma anche la macchina di governo, oppure il gruppo territorio che quindi si è occupato e continua ad occuparsi appunto di come poi la temporaneità delle strutture hanno influito e continuano a influire sul territorio e sulla popolazione, il gruppo salute che quindi si è occupato di tutte quelle che sono state le ripercussioni sia fisiche che psicologiche, certo. Legate al sisma e soprattutto allo spostamento della popolazione, allo sradicamento della popolazione dai luoghi d'origine alle coste o alle città limitrofe. Il gruppo rurale, che quindi si è invece occupato di tutta la questione relativa ai territori agricoli e pastorali e quindi il rapporto sostanzialmente con le attività produttive locali, e poi il gruppo cultura materiale, che quindi invece si è dedicato alla raccolta di immagini, al montaggio di video che potessero documentare insomma la ricerca. Assolutamente. Ok, avete anche attivato un crowdfunding? Sì, abbiamo attivato un crowdfunding perché questo ci potesse aiutare nella diffusione delle nostre ricerche, soprattutto del libro, all'interno del cratere ma anche oltre il cratere, quindi per poter sostenere una serie di spese che sono notevoli, ecco. E quindi sì, la campagna crowdfunding è già partita e potete insomma dove lo possiamo trovare? Trovarlo su produzionidalbasso.com. ok, e niente, questo è... E il libro possiamo trovarlo? E il libro sì, sarà pubblicato verso fine maggio grosso modo, e ovviamente sostenendo la campagna il libro potrebbe essere uno dei tanti dei tanti gadget, non è il termine giusto, ma dei tanti regali, insomma. Tu dai una mano, esatto. Chiaramente alla ricerca, e però insieme a stampe o a, insomma, che figata. Che figata. Quindi siete tanti? Quanti siete nel gruppo di ricerca? Siamo abbastanza, per ora una quindicina, ecco, però in comunque, realtà il numero è stato molto variabile, certo. Perché poi chiaramente essendo una ricerca totalmente nata dal basso, e poi ovviamente la partecipazione è cambiata molto nel corso del, certo, tempo, molto fluida. Anche perché poi a scala nazionale e anche a volte anche internazionale, perché molti di noi erano dislocati anche all'estero, quindi insomma il numero è variato nel tempo. Quindi avete iniziato a studiare dal 2016? Sì, perché se non sbaglio, le prime scosse dall'agosto sono state, del 2016, quindi. Esatto, il 24 agosto 2016 la prima, e poi sono continuate 26, 30 ottobre fino a gennaio, esatto. E quindi già dopo le prime scosse si è palesata la volontà di mettere in piedi questo gruppo di ricerca. Poi il gennaio dell'anno successivo. Esatto. Okay. E no, infatti, e quindi non avete iniziato a studiare anche il sisma dell'Aquila e tutta quella parte lì? Ovviamente sono state svolte delle considerazioni su come è stata la gestione di alcuni fenomeni sismici. Quindi che succede, certo, certo. comunque per creare, diciamo, dei parallelismi. Giusto, per capire, certo, soprattutto come sono, quali sono state le dinamiche di gestione della fase emergenziale, perché poi sostanzialmente ci siamo concentrati sulla fase emergenziale, perché ancora di fatto la ricostruzione non è partita ormai. Sì, ma nemmeno l'Aquila, se non sbaglio, cioè io ci sono stato, ma no, la ricostruzione del centro storico ancora, esatto. No, allora la parte interessante è proprio la parte sulle persone, quindi un'inchiesta militante sia sul potere, inteso come coloro che hanno il potere di aiutare all'interno della tragedia del sisma, ma anche psicologicamente sulle persone, quindi mi dicevi. Sì. E questa cosa è molto interessante, anche perché il sisma, nel senso, è una sensazione che è difficile, no, da spiegare. Il sisma è come la guerra, ci hanno detto appunto alcuni degli abitanti, quindi è come la guerra, ed effettivamente è così da un punto di vista prettamente, come posso dire, strutturale, perché obiettivamente moltissime delle zone colpite sono totalmente rase al suolo, e poi come la guerra da un punto di vista anche psicologico, perché, certo, chiaramente perdi tutto, perdi sia la casa che però anche il legame con il territorio. È quello. E soprattutto se si pensa poi a come è stata gestita la fase dell'emergenza, quindi come la protezione civile, quindi il governo hanno operato, quindi attraverso, da un lato, lo strumento del CAS, quindi il contributo di autonoma sistemazione, a cui chi voleva poteva accedere, che tra l'altro è stato favorito, quindi questa somma, diciamo, che è stata distribuita a pioggia in maniera totalmente, posso dire, omogenea, quindi senza chiaramente parametrarla in base ad un reddito, e quindi questo ha creato delle disparità ancora, certo, più grosse all'interno della popolazione. E poi tramite lo spostamento, lo sradicamento della persona attraverso il sistema degli hotel lungo la costa, che appunto ha creato delle forti ripercussioni psicologiche, perché chiaramente questo tempo dell'attesa, no, questo tempo sospeso si dilata ancora di più, e quindi si ha la sensazione poi di essere totalmente spaesati, no? Letteralmente spaesati. Totalmente spaesati, perché poi si creano delle condizioni di spaesamento all'interno di queste strutture che non sono casa tua, che in cui tutti sono concentrati, in cui tutti devono sottostare anche a degli orari poi di cena, e così via, e quindi, certo, giusto, chiaramente non è più una vita privata, uno spazio tuo che riconosci come casa, no? È così, molto interessante, ahimè tragico ma interessante. Le valutazioni sull'operato cioè avete fatto delle valutazioni sull'operato delle istituzioni, cioè sì, questa è, ci sono state, è una mancanze di... grosse, a parte mi hai detto appunto la disparità, però anche proprio nell'attuazione, nelle tempistiche, ad esempio tempistiche estremamente dilatate, ad esempio nella costruzione delle SAE, le famose casette di cui si sente tanto parlare, ancora non sono state tutte consegnate, quindi anche qui ulteriormente il tempo dell'attesa, l'attesa di qualcosa di temporaneo, che però non si ha la possibilità di vivere, perché poi in realtà nemmeno quel temporaneo viene garantito, perché il SAE è veramente qualcosa sì, che viene dato per, diciamo, superare una prima fase, però no certo, assolutamente l'attesa è il non luogo e non tempo. E ci sono dei contatti dove possiamo trovare anche via via, non so, parti di questa ricerca? Chiaramente sulla nostra pagina Facebook, ecco. Emilio Di Treviri. Benissimo. È un sito, emiliodi.treviri.it, e niente, quindi contattateci. Assolutamente, anzi, soprattutto chi è interessato a partecipare alla ricerca, quindi anche gli addetti ai lavori. Esatto, perché ancora è in divenire, quindi ora stiamo diciamo ci stiamo avviando verso una nuova fase e per capire come appunto poter proseguire la nostra ricerca sul campo. Allora, quindi ad aprile potrete trovare sul fronte del sisma un'inchiesta militante adito da Derive a Prodi, appunto la ricerca del gruppo Emidio di Treveri sui sisma, è un'inchiesta appunto militante. Niente, noi ti ringraziamo per averci grazie a voi raccontato questo testo e vi seguiremo e vi ricordiamo il crowdfunding che abbiamo detto appunto sempre di Emilio di Treveri per permettere che questa ricerca militante continui.